Cream. E vai. La settimana rossa. Quando nel mezzo della zuffa tra forze dell'ordine e manifestanti si udirono i primi colpi di arma da fuoco, nessuno capì da quale direzione provenissero. Poco dopo i carabinieri comandati dal tenente Opezzi cominciarono a sparare indiscriminatamente. Antonio Casaccia, commesso, Nello Budini, facchino, Attilio Ciambrignoni, tappezziere, vennero colpiti e non sopravvissero. Era il 7 giugno 1914 e ricorreva l'anniversario della concezione dello Statuto Albertino. Così, mentre monarchici e liberali festeggiavano con le fanfare al seguito, socialisti, repubblicani e anarchici pensarono bene di indire una contromanifestazione antimilitarista e antiregia. Sebbene il presidente del Consiglio Salandra avesse proibito ogni raduno di contestatori, ad Ancona il fronte repubblicano decise comunque di scendere in piazza. In città affluirono elementi di spicco della politica nazionale, che si riunirono alle ore 16 presso il circolo Gioventù Ribelle a Villa Rosa. Qui, dopo alcuni discorsi infuocati tenuti da Enrico Malatesta, Oddo Marinelli, Pietro Nenni e diversi sindacalisti, i manifestanti iniziarono a muoversi. Nel frattempo i carabinieri avevano circondato la zona per impedire ai rivoltosi di muoversi in città. Seguì presto una violenta carica delle forze dell'ordine, a cui la popolazione rispose con lanci di pietre e mattoni dalle finestre delle case. Poi fu la volta degli spari e dei morti. L'omicidio dei tre manifestanti divenne presto di dominio pubblico. Ad Ancona i ceti popolari insorsero saccheggiando l'armeria Alfieri, mentre nel resto d'Italia avvenivano indette manifestazioni di sostegno. Iniziò così la cosiddetta Settimana Rossa, caratterizzata da scioperi ad oltranza e da violenti scontri tra lavoratori e polizia, che portarono diverse città ad essere di fatto controllate dagli insorti. Dinanzi all'escalation di insurrezioni, il fronte dei manifestanti si spaccò. Da una parte la Confederazione Generale del Lavoro dichiarò la fine degli scioperi, mentre anarchici, socialisti, massimalisti e sindacalisti rivoluzionari invitavano alla prosecuzione delle rivolte. Alla fine, dopo 7 giorni di scontri, l'ordine fu ristabilito, anche grazie al massiccio intervento dell'esercito. Cronache e ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. E eccoci qua alla 69esima puntata di Fuoco alle Polveri. Buonasera a tutti e tutte, buonasera. Ringraziamo. L'avete Tasso. Sentito, l'avete riconosciuto, è Tasso. Che legge. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Bricco, ciao Grippo. Benvenuti e benvenuti alla nostra saponata settimanale. Ciao, ciao, cari. Ciao Grippo, Tuco, Bricobaldo, Tasso, tutti a saponare in quel della tana di Radio Wombat. Sì, una grande saponata oggi. Dress code senza maglietta. Senza maglietta, quindi se volete vederci vi mandiamo delle foto. No, non vi mandiamo delle Assolutamente foto. Assolutamente no. Non potete vederci. Non potrete, per fortuna vostra. Ma non vorrete vederci. Non vorrete neanche vederci. Tenete conto che l'unico con la maglietta è il Tasso. Perché ha probabilmente una termoregolazione sì. Un attimino superiore alla nostra. Tra l'altro è una maglietta sintetica, io vorrei sapere come fai. Non lo so, forse è già parte della pelle. In realtà, capito, si sta attaccando. Lo spirito portoghese. E allora abbiamo letto appunto da Cronache Ribelli, dal 7 al 14 giugno del 1914 si teneva la Settimana Rossa e abbiamo letto un estratto degli avvenimenti di quel momento appunto dall'almanacco e continueremo a farlo ogni puntata. Almeno sì, almeno speriamo di poterlo fare ogni settimana. Se vi piace, se non vi piace, fatecelo sapere. Ma comunque noi si va avanti. Cosa esatto. facciamo oggi, Tuco? Allora, oggi ricchi contenuti. Parleremo appunto di Gioia Tauro e della situazione appunto dei raccogliatori di pomodori. Non solo legati poi alla tragica vicenda dell'uccisione di uno dei braccianti, nonché sindacalista. Parleremo dello Students Hotel e quindi torna la nostra amata Nardellata. Nardellata settimanale o quasi, perché poi ogni tanto non ci sa voglia di farla, se no sarebbero quasi giornaliere, ecco. Cosa che si collega all'intro di oggi, della puntata di oggi, perché vero? Quello che avete sentito è il violino di Nardella che faceva finta di essere beccato dentro. Ah, ok, posso andare avanti. Che faceva finta di essere beccato da... dopo lo passo e faceva finta di essere beccato da così all'improvviso mentre lui nel suo tempo libero suonava il violino e stava suonando i Foo Fighters e in realtà era per lanciare il Firenze Rock. Quindi possiamo solo dire beh, incredibile. E quindi vi abbiamo voluto regalare questo violino ma ne avremo da dire su Nardella e assolutamente. Passo un attimo poi... Non so se avete sentito il riverbero di Palazzo Vecchio. Io ci suonerei volentieri a Palazzo Vecchio. Proprio, cioè, Nardella, so, Fortunello. Tu non sei Nardella, Pizzo. Non cominciare. Porca troia. Fatti i cherubini, Nardella. Fatti i cherubini. Certo, una persona. No, no, è vero. Scusate. No, però esprimo il desiderio di suonare a Palazzo Vecchio una volta con quel riverbero lì. Cioè, va bene, dai, allora gli lanciamo questa cosa al Nardellone. Esatto, parleremo Grippo. Poi di aggiornamenti di calci dal basso. Calci dal basso. E poi una notizia che abbiamo chiamato notizie inutili. Notizie inutili, non vi svegliamo niente, ve lo diremo più tardi. Diciamo che c'entrano i maceti e i funghi. Questo è l'indizio che diamo. Insieme, contemporaneamente. Insieme, contemporaneamente. E anche Nardella, volendo. E anche Nardella. Anche all'Akbar. Poi è una questione un po' complicata, dovremmo sviscerarla. Esattamente. Con calma. Concluderemo con il campeggio itinerante, composto dal campeggio itinerante. Avremo anche un contributo arrivato all'ultimo minuto riguardo alla manifestazione antifascista di Scandicci. Giusto. E niente. Probabilmente ci siamo scordati qualcosa. Forse? Vabbè. No. Questi sono i contenuti di oggi. 69 come il mio voto di maturità. Come altre cose. Come altre cose. Ben più piacevoli. E allora andiamo con un pezzaccio. Guarda il mare come lo sanno guardare solo certi figli del nord-est. Ma Venezia non è mare, solo un ideale che non puoi abbracciare mai e poi mai. Sposta i capelli sulla spalla destra, scopre quel disegno fatto di nascosto a suo padre. Adesso anche il parroco ha un tatuaggio con su scritto l'anima mia è di Dio. Il tempo non si ferma, non si è mai fermato, quello che è passato chissà dove è andato. Forse in quel cassetto dove nascondevo la carta stagnola o nel bar da Mauro. Il giorno in cui mi son fidato di questo paese lurido, sperduto, imbarazzato, freddo, grigio, solitario, disastrato, dove ho creduto finta di esserti vicino, ma vicini erano solo i guai e i tuoi. L'ambulanza grida e porta via mio padre, il sangue ormai è seccato, almeno te l'ho presentato, poi sono scappato. Firenze, Rimini, Ferrara, la piana e l'autostrada. Ma il sole risorge ogni giorno, ogni giorno. Finché non te lo dice lui, io non te lo dice lei, non conta. Andiamo in centro, andiamo in centro, andiamo a vedere i passeggini rotolare, gente comprare quello che non può avere, oppure più semplicemente resteremo qua. Ma il sole risorge ogni giorno, sempre e obiettivamente la migliore. Voilà. Ari, eccoci. Ciao ragazzi. Hola, hola. Nel frattempo sono passati di Zen Circus con L'anima non conta e del loro penultimo album. Li sentite anche in sottofondo di Zen Circus. Che gioia. Andiamo agli argomenti un po' più seri, o comunque andiamoci seri, dai. I tragici. E andiamo purtroppo a parlare della, di quanto accaduto e di quanto sta accadendo nella zona di Gioia Tauro in Calabria. Ennesimo omicidio. Allora sì, diciamo che la vicenda parte dall'uccisione del migrante del Mali Sumilia e Sumaila. Sumaila Sacco, in data del 2 giugno 29enne, e che ha riportato all'attenzione poi una situazione che in realtà tremenda, che delle condizioni dei lavoratori delle baraccopoli presenti là in quella zona e non solo, e che in realtà va avanti da più di 8 anni circa, no? Sì, diciamo che il primo evento che è andato sulle prime pagine dei giornali risale al 2010, quando ci fu una vera e propria caccia al nero in quel di Rosarno, che Rosarno è una frazione, insomma, nella piana di Gioia Tauro, piena di Gioia Tauro, che vede tantissimi problemi al suo interno, e dalla criminalità appunto a una situazione di sfruttamento intensivo, caporalato, quindi insomma, e anche una condizione sociosanitaria veramente veramente molto molto critica. E l'ultimo episodio è appunto questa uccisione di questo ragazzo maliano, ucciso affucilate il 2 giugno, quindi giusto 9 giorni fa. Esatto, mentre raccoglieva da una fabbrica dismessa alcune lamiere. In verità una fabbrica dismessa non era, nel senso che è un terreno sotto sequestro. È vero, perché è vero, della mafia. Sì, diciamo è sotto sequestro perché vi sono riversate numerose tonnellate di rifiuti industriali molto molto pericolosi. Quindi immaginate, lui, insomma, Sacco, insieme a altri due compagni, erano andati a prendere del materiale per poter costruire, esatto, delle baracche, delle lamiere per esattezza, perché le baracche che hanno adesso nelle comunità, cioè ci sono due tendopoli, una a San Ferdinando e una a Rosarno, attualmente appunto essendo tendopoli sono sia veramente molto esposte alle intemperie, ma soprattutto anche agli incendi, e quindi loro cercano tendenzialmente di sostituire materiale infiammabile, che insomma che combustibile, con materiale invece tipo le lamiere. Anche perché il problema degli incendi è un problema che c'è stato, ci sono stati degli incendi nelle baraccopoli. Giusto quest'inverno una ragazza nigeriana è morta per un incendio. Tra l'altro abbiamo visto anche la situazione dell'acqua, che non potabile, cioè l'unica cannella c'è non potabile, vengono portate delle cisterne che però non sono sufficienti. Assolutamente. E quindi tutto questo complicato perché per l'appunto Sacco era anche un attivista dell'Unione Sindacale di base, quindi era attivo nell'USB, e quindi detto queste cose ci suona veramente molto strano il fatto che sia stato fermato un uomo e quest'uomo diciamo l'accusa a suo carico è quella di aver ucciso Sacco per il furto di lamiere. Tutto questo suona veramente veramente strano, ma noi abbiamo fiducia nella magistratura e non dubitiamo che porterà alla luce tutti i fattori in campo. Intanto però l'USB si è attivata, e addirittura oggi c'è stato in visita il presidente della Camera Fico. Esatto. Ho tirato giù un articolo proprio dal sito di USB, usb.it, lo potete trovare tranquillamente tutti voi. Si intitola così: Fico visita con USB le tendopoli di San Ferdinando, no agli accampamenti, sì all'accoglienza diffusa. Contro la schiavitù dei braccianti serve il consumo critico. Questo è un articolo uscito giusto oggi alle 14.53. Ve lo leggo qualche pezzettino. Come promesso, giovedì scorso, ricevendo a Montecitorio una delegazione dell'Unione Sindacale di base, il presidente della Camera, Roberto Fico, ha visitato questa mattina la tendopoli di San Ferdinando, accolto da Abubakar Semakoro, del coordinamento lavoratori agricoli USB, dai rappresentanti dei braccianti USB dei due campi e dei fratelli di Sumaila Sacco, l'attivista USB, ucciso a fucilate il 2 giugno. Al presidente della Camera, che ha espresso le condoglianze ufficiali ai due fratelli e ai compagni di Sumaila, l'Unione Sindacale di base ha ribadito le richieste del sindacato, vale a dire piena verità e giustizia per la morte di Sumaila, perché anche se il nostro compagno non c'è più, la lotta per i diritti alla base del suo impegno sindacale deve andare avanti. Poi l'impegno delle autorità italiane per il rientro in Mali della salma di Sumaila su Maila, scusate, e un incontro con il ministro del lavoro per discutere le condizioni inumane di vita e di lavoro dei braccianti agricoli. Il presidente Fico ha rassicurato la delegazione USB dicendo certo che l'incontro con il ministro del lavoro Luigi Di Maio ci sarà, e il presidente della Camera ha garantito il suo impegno affinché sia accelerato il percorso che riguarda sia i datori di lavori che le istituzioni per l'azzeramento di ogni situazione di attendamento, tendopoli e baraccopoli, che devono essere superate a favore di un percorso abitativo all'insegna dell'accoglienza diffusa. Quindi Fico ha ascoltato moltissimi lavoratori, ha potuto rendersi conto di persona della situazione e infine il presidente della Camera ha anche voluto richiamare alle proprie responsabilità la nazione, perché sì. Quindi questa è la visita ufficiale di quest'oggi di un'alta rappresentanza delle istituzioni, anche se si deve dire che le istituzioni non sono proprio all'oscuro di tutto questo, perché da anni ci sono organizzazioni attive sul territorio che hanno portato anche proprio alla Camera, hanno anche proprio letto alla Camera alcuni report e alcuni rapporti della situazione sociosanitaria nella piaia di Gioia Tauro, ma non solo, perché questa, va detto, non è una situazione propria solo di quel posto lì. Vi sono situazioni molto simili in Sicilia, in Basilicata, in Puglia, e comunque che vengono dimenticate fino a che di solito non ci scappa il morto. Detto questo, noi siamo andati a cercare proprio una di queste. Abbiamo intervistato una lavoratrice di MEDU, Medici per i Diritti Umani, che è un'organizzazione non governativa che si occupa della tutela e dell'assicurare il diritto alla salute soprattutto in situazioni di estrema precarietà. Loro hanno una clinica mobile, nel senso che hanno un camper attrezzato ad ambulatorio, e con questo camper girano nei vari campi profughi, nelle varie tendopoli, e fanno un orientamento ai servizi sanitari ma anche una tutela legale, e quindi noi abbiamo questo contributo. Se il regista è così bravo e buono e generoso, potrebbe farcelo sentire. Te che dici tu? A meno che il sudore non gli abbia le sue. Andiamo. Allora, faccio come se si fosse in diretta per metterti un po' nella posizione giusta, va bene? Sì, ok. Abbiamo il telefono di Radio Wombat, Jennifer, operatrice di MEDU, che lavora in un progetto Terra Giusta, attivo nella piana di Gioia Tauro. Ciao Jennifer. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. E intanto se puoi presentare MEDU e anche il lavoro che fate. Sì, io mi chiamo Jennifer Locatelli e sono la coordinatrice del progetto Terra Giusta contro lo sfruttamento lavorativo dei migranti in agricoltura, che è un progetto attraverso il quale Medici per i Diritti Umani attivo in diverse zone, soprattutto del mezzogiorno, per portare assistenza sanitaria ma anche legale e sull'aspetto lavorativo ai braccianti, quindi ai lavoratori migranti, soprattutto stagionali, prestano le loro braccia, quindi sono manodopera nelle diverse campagne del sud Italia. Quest'anno in particolare siamo stati attivi nella zona della Basilicata e con attività di monitoraggio in Puglia, nella zona della Capitanata, e poi in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, dove siamo presenti per il quinto anno consecutivo. E nel corso dei 5 anni abbiamo avuto un po' modo di monitorare quali sono le condizioni di vita, di lavoro, la situazione civica, anche la situazione sanitaria ovviamente dei lavoratori stagionali, e purtroppo dobbiamo rilevare dopo 5 anni che la situazione è ancora molto drammatica e che ben poco è migliorato, nonostante le denunce che come MEDU abbiamo proposto tutti gli anni, che nonostante comunque l'attività di confronto con le istituzioni ben poco migliorato, la situazione continua a essere molto tragica. Ecco, ricordiamo fra l'altro che la vostra attività di monitoraggio è stata presentata presso la Camera per penso già un paio di volte. Sì, quest'anno in realtà abbiamo voluto presentare il nostro rapporto in due sedi, sia a Roma attraverso una conferenza stampa a cui fortunatamente hanno partecipato diversi giornalisti, sia a Reggio Calabria dove abbiamo chiesto una presenza più importante anche delle istituzioni sia locali che governative, ma che sono presenti sul territorio, proprio perché l'obiettivo del rapporto non è solo testimoniare la situazione, ma anche fare un'opera di denuncia e di pressione sulle istituzioni, sulle autorità competenti, in modo da cercare di spingere verso una soluzione del problema. Ecco, quali sono i principali problemi rilevati in questi 5 anni? Sì, allora, dal punto di vista sanitario, la situazione si è mantenuta pressoché stabile, cioè le maggiori patologie non sono legate, sono sostanzialmente legate alle situazioni di vita e di lavoro, quindi sono patologie legate all'apparato respiratorio, proprio perché lavoriamo in Calabria durante la stagione invernale, quindi il freddo è particolarmente intenso, soprattutto negli insediamenti informali dove le persone si trovano a vivere. Sono patologie dell'apparato osteomuscolare legate allo stress lavorativo a cui le persone sono sottoposte, molto spesso si trovano a lavorare per lunghe ore di lavoro. Quindi la situazione sanitaria è aggravata ulteriormente dal fatto che le condizioni della situazione abitativa in cui le persone si trovano a vivere per la maggior parte in una vecchia tendopoli, che viene anche definita baraccopoli, ma che in realtà noi ci teniamo a sottolineare che è una vecchia tendopoli, nel senso che è una tendopoli istituita dal Ministero dell'Interno, che negli anni si è andata è stata abbandonata la sua gestione e quindi si è trasformata in quella appunto che è un ghetto, una baraccopoli. Molte persone vivono qui, alcune in alcuni altri capannoni o fabbriche dismesse della zona, qualcun altro occupa dei casolari abbandonati in mezzo alle campagne e qualcuno quest'ultimo anno ha trovato anche posto nella nuova tendopoli, l'ennesima soluzione emergenziale adottata dalle istituzioni nel comune di San Ferdinando. In tutti i casi però la situazione, le condizioni di vita sono caratterizzate comunque da condizioni igienico-sanitarie molto precarie, quindi peggiorano ulteriormente quella che è la situazione sanitaria, oltre con un'assenza comunque di accesso all'acqua potabile. L'acqua a volte c'è, ma le persone devono comunque andare a reperirla in alcune fontane più o meno vicine agli insediamenti. Si tratta comunque di una di soluzioni dove il freddo comunque la fa da padrone, dove le persone possono solo riscaldarsi con delle bombole gas, per esempio, che rappresentano anche un pericolo per la sicurezza delle persone. Ecco, e attraverso tutta la, voi appunto dicevi, fate sia un'assistenza sanitaria che però anche legale, e quindi magari potete anche parlare delle condizioni di lavoro di queste persone. Sì, allora, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche in questo abbiamo visto molti pochi miglioramenti, nonostante le leggi anticaporalato che sono state approvate e vari protocolli anche adottati a livello di Regione Calabria. Le persone continuano a lavorare per gran parte senza un contratto di lavoro, parliamo di meno del 30% delle persone che hanno un contratto di lavoro, e anche i pochi che riescono ad ottenere un contratto in realtà continuano a lavorare in condizioni comunque di violazione dei diritti dei lavoratori, dove non vengono rispettate quindi le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro, sia nazionali che provinciali, quindi lunghi orari di lavoro, non accesso, difficoltà di accesso alla disoccupazione agricola, mancanza delle giornate di riposo obbligatorie e soprattutto anche il pagamento non rispecchia per nulla quanto previsto dalla legislazione. Nella maggior parte, diciamo, metà dei casi, soprattutto per quanto riguarda la raccolta di clementine e arance, le persone vengono pagate a cassetta, quindi 50 centesimi per ogni cassetta di arance e 1 euro per ogni cassetta di clementine. Ricordiamo che il lavoro a cottimo è comunque vietato in agricoltura, quindi si tratta di una pratica illecita che continua a essere ampiamente diffusa. Chi viene pagato a giornata comunque viene pagato con un salario dell'incirca 20-25 euro al giorno. Anche qui siamo all'incirca la metà di quanto previsto dai contratti provinciali di lavoro. La situazione è particolarmente grave, se poi sottolineiamo anche che da alcuni dati, per esempio riferiti dal commissario straordinario governativo Polichetti, in realtà nel 2017 nella piana di Gioia Tauro sono stati stipulati 21.000 contratti agricoli, soltanto che di questi soltanto 5.000 sono stati stipulati a stranieri e ben 16.000 italiani. Che si sappia che sia evidente comunque girando tra le campagne della piana che siano solo stranieri quelli impiegati nella raccolta, quindi anche qui ci sono ovviamente delle pratiche illecite che si sovrappongono a quelle che sono già le violazioni dei diritti dei lavoratori. Ecco, lavoratori che tra l'altro immagino molti non siano in possesso del regolare permesso di soggiorno. No, in realtà la situazione non è così. Dai dati che noi abbiamo raccolto, oltre il 90%, cioè il 92,65% sono regolarmente soggiornanti. Questo è un dato che va evidenziato perché molto spesso si crede comunque che in questi neghetti dei lavoratori si raccolgano soprattutto le persone che non hanno un permesso di soggiorno. In realtà appunto la maggior parte, la gran parte sono regolarmente soggiornanti, ma sono costretti a trovarsi a vivere in queste condizioni di vita e di lavoro per una serie di condizioni, tra cui per esempio il fatto della precarietà giuridica, molto spesso sono in possesso di documenti di soggiorno, di permessi di soggiorno in qualche modo precari, e quindi che rendono le persone più facilmente ricattabili dal punto di vista anche lavorativo. E poi c'è un problema probabilmente di come è strutturato il sistema d'accoglienza, che non favorisce in alcun modo l'inserimento sia sociale che lavorativo dei migranti. Allora, prego. No, questo fa sì che nel momento in cui una persona esce dal centro d'accoglienza non abbia né una rete sociale né qualsiasi altro tipo di supporto che gli permette di sopravvivere, e quindi si trova a convergere in queste aree dove può trovare una presenza più massiccia di connazionali. Ecco, una cosa che volevo domandare anche in relazione a quello che è successo pochi giorni fa con l'omicidio di un ragazzo maliano, è la comunità, le persone, gli abitanti della piana di Gioia Tauro, com'è che si interfacciano, com'è che si rapportano con questa situazione e con le comunità di Rosarno e di San Ferdinando? Allora, c'è stata nel corso degli anni comunque una scelta anche politica di collocare questi lavoratori stagionali, che io voglio ricordare che sono comunque una risorsa fondamentale per l'economia della zona, un'economia prevalentemente agricola, ma c'è stata una scelta di relegare le persone in insediamenti lo più lontano possibile dalla popolazione. Quindi queste tendopoli che ho, i vari campi container che si sono susseguiti sempre in zone molto remote, isolate, naturalmente nelle zone industriali. Questo fa sì che comunque si tratta di una situazione per cui non si crea alcun tipo di interazione o molta poca tra la popolazione locale e i lavoratori migranti. Allora, la mancanza di contatto, la mancanza di conoscenza reciproca ovviamente va a fare il gioco di chi invece vuole un po' soffiare sul vento del razzismo, della presenza di questi lavoratori appunto che si considerano per gran parte dei casi irregolari o delinquenti, e anche una percezione dovuta soprattutto alla proprio l'assenza di conoscenza, l'assenza di contatto. Ok, questo un altro fattore immagino da considerare in questa situazione, che da quello che racconti sembra veramente molto molto difficile, è la presenza della criminalità organizzata nella zona. Quindi si può dire che è uno dei fattori in campo nel creare questo? Sicuramente sì, e molto probabilmente anche i scarsi progressi fatti nonostante le denunce di questa situazione sono legati anche da una difficoltà da parte delle istituzioni a prendere delle misure in un territorio permeato in maniera pesante dalla criminalità. Sicuramente c'è poi una presenza della criminalità per quanto riguarda la filiera produttiva, per cui le condizioni di lavoro così drammatiche, con pagamenti così bassi, sicuramente sono anche una conseguenza di una presenza della criminalità lungo tutti gli anelli della filiera, che fanno sì che siano comunque vi sia un grosso vantaggio economico negli anelli finali più in alto della filiera, quindi a livello di grande distribuzione organizzata e di logistica, mentre continua a penalizzare sicuramente i braccianti, ma in parte anche i produttori. Ecco, tornando all'omicidio avvenuto oramai più di una settimana fa, si sta parlando, è stata incriminata una persona, si sta parlando di di una vendetta per un furto di lamiere da una discarica, cosa che, devo dire, devo essere sincero, a me sembra piuttosto inverosimile. Puoi darci una tua lettura sull'accaduto? Sì, una cosa che non so quanto sia passata comunque dalla cronaca, e che va comunque sottolineato, che il posto in cui le persone stavano appunto raccogliendo delle lamiere è in realtà un sito di stoccaggio di rifiuti pericolosi. Si pensa che insomma dovrebbero essere stoccati di almeno 135.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, tra l'altro provenienti in gran parte da aziende dell'Enel provenienti dalla Puglia e da altre regioni d'Italia. Quindi si tratta di un sito dove c'è un'inchiesta aperta ormai da 10 anni e che probabilmente si chiuderà senza alcuna condanna perché è interessata comunque la prescrizione del reato. Si tratta per il resto comunque di non di un furto, perché comunque in questo momento quel sito non ha un proprietario, ma si tratta sostanzialmente di raccolta di materiali quali abbandonati, quali appunto delle lamiere, che vengono utilizzati poi dalle persone per costruire le baracche. Baracche in cui si sta cercando di sostituire il cartone o la plastica o il legno con cui precedentemente venivano in parte costruite con della lamiera, per evitare anche le conseguenze simili all'incendio che si è verificato a fine gennaio, dove ha perso la vita una donna nigeriana. Quindi io credo che non si possa parlare di un furto in questo caso. Sicuramente gioca un ruolo rilevante anche il razzismo, che comunque continua a essere, nonostante anche dopo la rivolta di Rosarno del 2010, molto diffuso nella zona, e che sicuramente è stato sicuramente contribuito anche le dichiarazioni del nostro nuovo governo. Certo che non perde assolutamente occasione per ribadire quanto è razzista e quanto sotto che luce veda i lavoratori che poi, appunto, come dicevi te, contribuiscono in modo notevole all'economia del nostro paese. E fra l'altro il ragazzo che è stato ucciso era una persona attiva nei sindacati che sono presenti nella piana. come può esserci una relazione fra questo collegamento e l'omicidio? Ma su questo non sono in grado di dare una risposta, nel senso che non credo sia ancora ben chiara la dinamica dell'incidente, quindi se la persona, insomma, la sacco, appunto, la vittima è stato il bersaglio scelto, oppure semplicemente una delle tante persone che vivono nelle baracche della baraccopoli, nella vecchia tendopoli, che sono risultate vittime in quanto di carne di scura. Quindi forse io non mi so pronunciare, sicuramente c'è un lavoro da parte dei sindacati che però si scontra con le difficoltà di convincere comunque le persone a portare avanti anche un'opera di un'azione di denuncia in una situazione in cui le persone non hanno altre alternative. Quindi denunciare un datore di lavoro vuol dire in ogni caso rimanere senza lavoro quest'anno e negli anni futuri. Quindi è sicuramente una situazione difficile a cui anche i sindacati, con cui anche i sindacati si confrontano, e che per quanto la loro presenza sia sempre più necessaria per cercare in qualche modo di cambiare la situazione per come è ora. Bene, la comunità, come ha reagito la comunità, le comunità di San Ferdinando e di Rosarno a questo ultimo evento, visto che non è l'unico, appunto citavi l'incendio di questo inverno, ma se ne può citare anche tanti altri, è stato anche nelle prime pagine dei giornali per diverse volte, fin dalla rivolta del 2011 se non mi sbaglio. Quindi come ha reagito la comunità? Sì, del 2010. Del 2010. La comunità, quella di migranti oppure locale? Dei migranti. Sicuramente con molta rabbia, ma anche con molta paura. E paura perché comunque è ancora vivo abbastanza il ricordo comunque degli eventi del 2010, in cui c'è stata una caccia al nero non diffusa in tutta la piana. Paura e dall'altra parte rabbia perché le persone, si tratta di una situazione che si è talmente cronicizzata, che si sta denunciando da anni e anni e ben poco continua a essere fatto dalle istituzioni. Io volevo ricordare che comunque sono state firmate da parte delle autorità diversi protocolli e convenzioni che vanno in direzione sia dell'inserimento abitativo diffuso degli abitanti della Tendopoli, in direzione di un miglioramento dal punto di vista lavorativo. Ripeto, come medici siamo presenti lì da 5 anni, dopo 5 anni proviamo a ripetere, a denunciare esattamente le stesse condizioni. Ecco, giusto oggi il presidente della Camera, il neo presidente della Camera, Fico, è sul luogo. Sarà, pensi sia la volta buona? Speriamo che sia la volta buona, soprattutto per almeno per cominciare a fare qualche passo in avanti in direzione di una soluzione della situazione. Sicuramente gli anni trascorsi senza fare nulla fanno sì che sia sempre più difficile trovare una soluzione in tempi brevi, però è inevitabile cominciare ad adottare qualche piccolo passo, ripeto, sia in direzione di un inserimento abitativo che comunque è stato. Sono già degli esempi nella piana, per esempio quella nel comune di Drosi, dove ormai da anni le persone sono state inserite in abitazioni fisse e pagano regolarmente un affitto. Quindi la piana di Gioia Tauro conta con almeno 30-35 mila abitazioni vuote che potrebbero essere date in... potrebbero essere una soluzione abitativa molto più degna per i lavoratori. E dall'altra parte speriamo anche che dal punto di vista lavorativo si adotti una strategia molto più con un controllo molto più massiccio sul territorio e fatto anche di una serie di altre soluzioni, tra cui per esempio introdurre dei meccanismi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro attraverso per esempio l'attivazione di liste di prenotazione presso centri per l'impiego, anche questa è una soluzione che è già stata individuata dalle autorità e quindi si attende la messa in pratica di queste pratiche. Benissimo. Allora, il tempo, il nostro tempo è un po' scarso, se non hai altre cose particolari da dire, io direi che ci possiamo lasciare e risentirci al più presto. D'accordo, grazie. A te, grazie, grazie, a presto. Grazie, arrivederci. Jennifer? Sì. Eccoci, ok, va bene. Anche le foche bevono Radio Wombat. Il suo marchio pallido e tutto bianco, uffici e traffico, ogni parco era un campo santo e ogni palazzo una caserma, una casella, un pachidermo esausto in calciamiando. Fuggirò via da questo porto franco, posto in fausto, a pronto all'occhio all'impatto. Periferie di fiumi e scarti, scie di lumi a scatti, vie di lupi al pascolo e allo sbando. E questo spazio schiaccia i sogni in due minuti, uno sull'altro, come su un astro, e sul mare, polverizzandoli in un lancio verso l'alto, come in un lame. I coriandoli dell'anima, il vento gli scaldava i pensieri della mattina. E la Paolo guardava il mondo seduto su una panchina in ghisa. Riuscirò mai a fuggire da sta linea, i contorni della mia vita, sui bordi di sta provincia grigia. O starò qui come muschio di stazione, con la gioia che si squaglia dopo ore dietro il bancone, con la noia che si incaglia negli occhi delle persone, poi ne esce fuori al buio nel fumo delle stagnole. Solo il vento di scirocco mi dà una speranza, lui che passa e riscalda ogni landa sfiorandola. È l'unico capace di scappare oltre ste strade, che anche quando resta in loco dopo poco riesce ad andarsene. Che spira e danza, vira e salza, accorda gocce di piogge con linee d'aria, che attraversa il tempo e il mare, il temporale, le montagne, poi si ferma a moreggiare con le vele nelle darsene. E lo guardavi plessi confini, farsi più stretti, gli amici farsi più stretti, i profili dei tetti in Eternit. Che cosa aspetti? Lasci in fretta effetti affetti, via i lucchetti alla Benelli a due tempi senza gli sprechi. E quando avviò la moto l'euro un giorno buono, a chi vedendolo per strada chiese Paolo dove vai? Seguirò il vento e non ho scopo, non ho luogo, ma una mappa dettagliata per riuscire a non tornare mai. E via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade d'aria andando verso Utopia. Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove e via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade in alto verso la rotta ignota, man. E via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove sei. Questo mondo sregolato, un volto screpolato, bestie nei carceri che pregano in apnea, festa in quest'arcipelago sgretolato che il vuoto intorno lo crea per dopo sentirsi Pangea. Paolo sentirà lamenti provenienti da continenti sommersi che cantano i versi di quell'epopea, ora che sta su un prato salato che conterà rose dei venti crescere tra l'alta e la bassa marea. Il crepuscolo che fu svegliato fu platea di un pubblico che poi si presentò come un cielo stellato, un velo, Paolo i rigidi ogni muscolo ed ascellerò passando dall'asfalto rovinato allo sterrato nero come un buco dentro al buio, mentre agli angoli nei boschi si udivano i vecchi proverbi degli alberi. I mostri non li hai mai distrutti tutti, copiandoli le armi che hai comprato ora le butti, coriandoli. Il pubblico di stella applaudendo lasciò il teatro, l'aurora che iniziò ad autoritrarsi di sfumato, e Paolo all'ultimo rintocco chiese a quell'aurora che albeggiava un ultimo ritocco al quadro. La moto fu trovata ma non era danneggiata, era un accrocco al centro di una strada senza carreggiata, la città amareggiata, l'atmosfera sfera mortuaria tra le ombre, la provincia grigia pianse, non conobbe strade d'aria. Capito ciò che Paolo disse a quell'aurora che come pittrice gli sembrò disinibito, sciocco. Dipingimi anche trasparente come una parola, ma dipingimi per sempre come effetto di scirocco. No, non è un concetto importante che poi non torno, non sarò né semestrale né facile da ammaestrare, andando a braccetto con il levante e col mezzogiorno, che voglio strappare il mare, lanciarlo contro il maestrale. Io voglio soffiare, gonfiare, annaffiare ogni candela, rubare foglie di fuoco lasciando un tronco di cera. Io quella sera rubai solo per te la rosa più ventosa dal prato salato dei rosai. L'aurora, staccando un pedala su testa, usandolo come pennello, dipinse la storia ai grandi marinai. Ora si racconta che c'è un vento che porta una mappa con la rotta giusta per uscire a non tornare mai. Via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade d'aria andando verso utopia. Via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove è. E via da qui, via da qui, via da qui, viaggio sulle strade in alto verso la rotta ignota, man. E via da qui, via da qui, via da qui, ma dimmi dove sei. Super pezzo, ma il pezzo che avete appena sentito, tratto dall'album L'uomo che viaggiava nel vento e altri racconti di brezza e correnti, era Scirocco di Murubudu Feat. Rancore. Ricordi, Tuco, con questo sottofondo, io e te. Sì. Grandi momenti della storia radiofonica italiana. Italiana, no, dai. No, mondiale, forse universale. Addirittura. Allora, niente, abbiamo appunto sentito l'intervista fatta dal nostro Bricobaldo a Jennifer Locatelli di Medu. Sì, io l'ho tagliata un secondo in fondo, ma tanto stavi salutando. Sì, stavo salutando. Ciao, chi se ne fotte. E la risalutiamo e ringraziamo. Mille ringraziamenti. Appunto, come vi dicevamo, una situazione, come ci raccontava, che non è certo nata ieri, ma è anche ben conosciuta, tra l'altro. È anche ben conosciuta anche dalle istituzioni stesse, che sono state poi le artefici della partenza proprio di questa situazione, come ci raccontava. Sì. Volevo dire che volevo dire che il crowdfunding per riportare Sumalia a casa la sua famiglia per essere sepolto ha già raggiunto la cifra richiesta, quindi insomma una bella notizia. Sì, inoltre USB ricorda i prossimi appuntamenti di lotta, che sono innumerevoli fra l'altro nei prossimi giorni, ma in particolare vi sarà la grande manifestazione nazionale di sabato 16 giugno a Roma contro le disuguaglianze sociali e per i diritti. Poi vi sarà invece un'altra manifestazione a Reggio Calabria, tutte queste con USB, il 23 giugno, e il 30 giugno vi sarà un convegno a Foggia per l'elaborazione di una proposta di riforma del lavoro agricolo. Questo per quanto riguarda diciamo il Sud Italia, ma anche a Firenze vi sarà qualcosa, perché i No Borders organizzano un presidio per Saco Somalia contro omertà e xenofobia il 12 giugno, cioè domani, presso Viale Filippo Strozzi, praticamente alla Fortezza d'Abbasso. Esattamente, quindi continueremo a seguire... Alle ore 18. Alle ore 18, benissimo. Domani, quindi, abbiamo detto. Domani. Continueremo a seguire tutta questa vicenda e sperare raggiunga e trovi un po' un lavoro istituzionale, ma anche dal basso, se già sta partendo, per risolvere la situazione. Ma lasciamo un po' le terre del sud per concentrarci sulla nostra casa, sulla nostra Firenze, e partirebbe... Vogliamo far partire la sigla? Una nuova sigla. Dai, con la sigla. Sentiamo, dai. Una nuova sigla. La Nardellaha. Ecco la nuova sigla. Live in esclusiva per voi. E tanto che millantavamo la sigla di Nardellaha. Finalmente, eccola qua live. Sì, faremo anche una versione studio presto. Arriverà. Sì, ma non c'è fretta, si ripete tutte le volte, perché tanto, cioè, qui abbiamo fonti inesauribili di Nardellaha. Ma sì, cioè, dobbiamo impegnarci nello scartarle. Sì, bisogna fare una selezione, ci vuole una redazione per selezionare. Una forse l'ho trovata, è una pagina Twitter che si chiama Stupidario, rubrica bellissima. Satirica. Esatto, è una pagina Twitter dove potete segnalare, fra l'altro, a chiocciolina Stupidario. E va bene, nasce Stupidario, la rubrica satirica della città invisibile. Conosciamo la città invisibile. Va bene, che si propone di raccogliere dichiarazioni della giunta, del sindaco di Firenze, Dario Nardella, provenienti da documenti ufficiali, programmi elettorali oppure anche dai media. L'una delle ultime, va bene, ve la leggo. Sospira. Lanciamola. 21 ore fa, pubblicata 21 ore fa, e dice così: se fossi studente, io allo Student Hotel ci verrei, questo è Dario Nardella, il 6 giugno 2018. Vabbè, ma ce n'è un'altra, poi basta, perché poi vabbè, cioè, ora gli ultimi temi sono naturalmente le grandi opere, va bene, perché il nuovo governo sta per rovinare i piani, la torta dell'amministrazione fiorentina che vedeva nelle grandi opere, vai via. Comunque, sempre sullo Student Hotel, lui dice... ecco, questa è la risposta... Questa è la risposta agli affitti a nero. Se calcoliamo un appartamento affittato a nero più le utenze, i servizi come piscina, palestra, che qui ci sono, il prezzo non è poi così differente. Non è male, non è malaccio. Beh, questa si è impegnato. Questa certo. Si è impegnato, ragazzi. Quell'altra può essere spontanea, no? Cioè, magari... Sì, ma certo, ma ci sta che uno come lui ci vada allo Student Hotel, sì, nel senso. Sì, cioè, te l'ha detta sincera, magari, no? Lì per capito. Lì ha avuto questo moto, no? Ha visto la piscina con scritto... Com'era? Il mare so. Sax, tipo, sì. Una cosa del genere. Fuck the grande. Sì, tipo, perché andare in piscina? Beh, qualcosa diceva, non andare in mare, c'era piscina. Innamorato. Beach is boring, ok, grande. Ma vai in culo. Cioè, ci sta che in un modo di sincerità anche il nostro sindaco abbia fatto quell'intervento. Poi se ne può pensare quello che ci pare, ma la seconda che hai detto, secondo me è studiata. Cioè, non so se c'ha un ufficio stampa dietro per le nardellate. Ce l'avrà anche lui, forse. Ma c'è di sicuro, ma forse probabilmente l'ufficio stampa suo è anche quello che gli serva il culo, perché magari, cioè, se lo lasciasse la briglia sciolta davvero, chissà quante ne combinerebbe. E forse qualcuno dentro a quell'ufficio stampa ascolta Fuoco alle Polveri tutte le settimane per sapere se le cose hanno fatto scalpore. Ma speriamo di no. Speriamo di no. Secondo me ha preso in appalto l'ufficio stampa che c'aveva Berlusconi. Magari se lo sono passati. Ha fatto un bel accanto. Berluschella, allora, l'ufficio stampa. E in tutto ciò, quindi questa è la parte di questa presente nella nardellata, però si collega a un fatto. Sì, esatto, spieghiamo anche cosa è successo realmente, perché è successo, era il giovedì 7, è stato inaugurato praticamente alla Fortezza, nell'ex Palazzo del Sonno, lo Student Hotel del quale abbiamo già parlato, grandissimo, sono 380 stanze, costosetto, perché costa. Nonostante quello che dica Nardella, è una, cioè, una camera costa almeno 970 euro, se non mi sbaglio. E che è tanto, scusa. No, 270 euro, cioè in terra. Te quanto paghi di affitto? No, ma io li trovo in terra soldi, figurati, cioè. Va bene, comunque, inaugurato, il costo sì, vi è stata anche una protesta da parte di alcune sigle che hanno fatto un presidio, però non sono, loro hanno puntato molto l'accento sulla questione del costo, ma non è l'unica questione che non torna, perché intanto fa parte di quel grande patrimonio pubblico che dopo lo Sblocca Italia è stato visto, messo proprio all'asta, a ribasso, si può dire. Perché sono effettivamente, vi è dietro un meccanismo che fa sì che questi edifici fortemente svalutati vengano venduti ad acquirenti, che poi in verità ne fanno dei gran profitti da questi immobili. E tutto questo a discapito della popolazione, perché la popolazione non può, i cittadini non hanno modo di accedere spesso a questi servizi, visto anche i costi, appunto, del tutto. Possiamo citare tanti articoli, Ilaria Agostini ha scritto e riscritto su questo, e abbiamo sentito Ilaria Agostini. Sono diversi i metodi che vengono utilizzati, si sta parlando di estrattivismo fondamentalmente. Estrattivismo, abbiamo qua Olmo, uno specialista dell'urbanistica, fra l'altro. Tonno! Specialista. Specialista, no. Tolmo. Quasi urbanista. Troppo, però. Sì, la questione dello student hotel e dei piani di espansione sia della stessa multinazionale, appunto con l'area di Belfiore, il famoso laghetto, Vero, perché ne arriveranno altri due, signori, di questi affari. Non ne basta uno in Viale Lavagnini, ne verrà fatto un altro in Viale Belfiore. E qui bisogna, con rammarico, bisogna far notare che ci toglieranno il lago. Cioè, finalmente era sorto un lago a Firenze e dice: cosa ci facciamo? Il bagno? No, assolutamente, figurati, ci facciamo un albergo. E a questo si aggiunge quello nella ex manifattura tabacchi, sì. Altra operazione enorme di un pezzo intero di città, tra l'altro in cui sono state fatte varianti urbanistiche per adattare, cioè per aumentare insomma l'articolo superfici. 13, se non mi sbaglio, del piano urbanistico. E, sì, sono interventi che sicuramente si hanno un effetto sulla città estremamente pesante, vengono presentati con la retorica di riaprire alla città, appunto dopo i mille casi di situazioni di abbandono, la retorica di riaprire la città, peccato appunto, come abbiamo detto, la reale accessibilità ai servizi offerti, appunto con le camere da 750 a 1150 credo euro al mese, sì. E servizi tutti legati comunque a una classe alta. E la cosa bella nelle dichiarazioni di Nardella è proprio che quella credo uscita sulla Nazione diceva appunto questo: riesce a intercettare un segmento di studenti delle future classi dirigenti. Quindi è interessante proprio come Nardella non nasconda minimamente quali sono i processi che appunto sono già i cui effetti sono noti proprio perché sono processi in atto, per esempio tipo a Barcellona o in queste città dove si è sviluppata poi dopo una forte lotta contro questi fenomeni, perché sono processi dove il restituire la città in realtà vuol dire creare delle enclave appunto privilegiate, sottrarre ovviamente con un effetto anche sulle aree circostanti, no? L'arrivo di persone con un potere acquisitivo superiore ovviamente esclude il vicinato. Verissimo, Ilaria Agostini scrive: Firenze, l'espulsione delle comunità locali in favore del turismo di lusso e del profitto dei pochi. Questo lo scriveva già il 4 luglio 2017 e lei appunto, per definire bene questo meccanismo, parla di estrattivismo e monocultura. Cita: estrattivismo si intende il sistema di accaparramento di risorse naturali, loro commercializzazione ed esportazione, contro il volere delle comunità locali, contro l'equilibrio dell'ambiente. L'accaparramento tramite spossessamento, cita Harvey, e l'estrazione di rendite monopolistiche perpetrati da imprese multinazionali rientrano nel quadro, nelle dinamiche coloniali e neocoloniali, cui si confanno la militarizzazione del territorio, la violazione dei principi di convivenza democratica, la violenza e la repressione. Direi che, certo, magari ora questo è un concetto che si sente più spesso sulle questioni, diciamo, delle estrazioni minerarie, soprattutto in paesi al di fuori, diciamo, non occidentali, ma la monocultura esiste anche a Firenze ed è il turismo, la militarizzazione. Ragazzi, esiste, ce l'abbiamo, direi proprio di sì. Violazione di principi di convivenza democratica, si stava appunto citando la modificazione, le modifiche al piano urbanistico, al regolamento urbanistico, che prevedono diverse cose, ma soprattutto la non pianificazione urbanistica, nel senso che viene tutto lasciato in mano alla sovrintendenza, che non è un atto un organo atto alla pianificazione urbanistica. Quindi tutta quella parte lì viene completamente tralasciata per far sì che l'acquirente possa veramente farci quello che vuole. Sempre Ilaria Agostini dice che l'estrattivismo impoverisce socialmente poiché, come è stato scritto, depriva, spossessa le popolazioni di progettualità sul proprio ambiente di vita. Non lo dice Ilaria Agostini, lo dice Raul Zibecchi. Raul Zibecchi è uno studioso del settore uruguagio e fra l'altro questo venerdì sarà a Firenze in Piazza Tasso dalle ore 17 alle ore 19 a parlare proprio di questo. Continuo, signori? Va bene, insomma, comunque dai, è un grande pippone. Solo un appunto: la monocultura turistica non è in grado di mettere in moto spinte riproduttrici di patrimonio, anzi lo consuma irreversibilmente, e tantomeno è in grado, lo si è accennato, di ridistribuire efficacemente reddito. Anche qui non si può che dargli ragione, perché appunto gli edifici che vengono venduti sono venduti, signori, poi non è che te ci rimetti piede. Oddio, sono svenduti. Durante gli anni appunto si è sfruttato questi processi, lasciando decadere gli edifici e poi chiamando, come abbiamo parlato l'altra volta rispetto a Sant'Orsola, diciamo si guidano questi processi di speculazione. Appunto si chiama gentrificazione, la Regostini preferisce chiamarla speculazione. Gentrificazione in realtà vuol dire imborghesimento, e di fatto questo è il processo in corso, però su una scala globale, nel senso che qui si va ad attrarre le classi alte, cioè ci si contende le città, si contendono le classi alte del mondo. Si punta alle classi alte, anche perché le classi alte poi di fatto non abitano a Firenze, e quindi non è che avanzeranno mai delle richieste scomode per un'amministrazione, cioè saranno creati tutta una serie di servizi esclusivi, e loro ci sguazzeranno. Chissà se l'aumento del costo del biglietto dell'autobus ha qualcosa a che fare con tutto questo. No, sono complottista. No, è interessante il processo, soprattutto per quanto riguarda Firenze, perché porta la situazione su quello che è effettivamente la competizione sul turismo, ormai dichiarato insomma come uno degli elementi che è stato usato dalle città per affrontare la crisi, no? E Firenze, che aveva una tradizione turistica, cioè la parola turismo nasce dal Grand Tour, e quindi proprio dal venire a Firenze, in realtà Firenze si sta proponendo un modello che è già stato usato ed è già fallito. E la cosa interessante, appunto, come vediamo questi concertoni, tutta questa serie, è come se la giunta di Nardella avesse preso le politiche turistiche di Barcellona di anni fa e abbia fotocopiato e si sia... Sì, in modo un po', l'altro un po' maldestro, perché comunque Nardella cerca sempre di tenere un piede da una parte e un piede da un'altra. Qualche tempo fa si lamentava di non avere abbastanza strumenti per poter controllare, tenere sotto controllo i flussi. Poi alla fine invece il giorno dopo va a fare altre cosine, cioè, quindi... Sì, la cosa... Diciamo che in alcune città si sono svegliati, a Barcellona, ma in Spagna abbiamo visto Palma di Mallorca, hanno regolamentato anche in modo molto stretto assolutamente i flussi turistici, perché ci sono state pressioni dal basso. Esatto. Una reazione a una situazione che si era resa insopportabile. Però la cosa particolare di quello che fa Nardella è appunto il bene che lui ha in mano. Appunto, città come Barcellona, che hanno tentato la via del turismo come riconversione rispetto alla realtà industriale precedente, diciamo non avevano in mano il patrimonio che ha in mano Firenze, non erano un bene unico. Cioè anche a livello di mercato l'operazione è veramente a perdere, è veramente a fare gli interessi delle multinazionali. La cosa interessante rispetto alla situazione precedente è che vedeva un'accoglienza più diffusa in ogni modo, e quindi c'era tendenzialmente questo appoggio a questo tipo di politiche turistiche da parte di non tutti, però anche insomma la classe media fiorentina ne ha sempre tratto i suoi vantaggi. E ora questi monopoli, che l'entrata delle multinazionali, sia in questo caso, appunto prima gli studenti stranieri venivano e fino adesso sono stati ospitati in vari appartamenti e più diffusi, insomma, e questo insieme all'entrata su Airbnb di diciamo più grandi colossi porta la situazione a una criticità che a Firenze appunto non era mai stata raggiunta, e anche a livello politico probabilmente la giunta dovrà risponderne nel momento in cui si va a toccare a mettere le mani nelle tasche, no? Come citano sempre, questo sarà un mettere le mani nelle tasche a quelli che affittano agli studenti e che si troveranno di fronte una mega multinazionale. Quindi, assolutamente, verissimo. Fra l'altro il problema non si limita al fatto che questi sistemi attraggono grandi flussi di turismo, ma appunto non redistribuiscono poi questo bene, questa ricchezza che arriva da lontano non viene redistribuita in modo equo, né dal punto di vista monetario né dal punto di vista dei servizi. Volevo citarvi una puntata di Passaggio a Nord-Ovest, è una trasmissione del Wombat, la puntata 37 del 14 maggio, quindi circa un mesetto fa. Ilaria Agostini racconta come quello che succede appunto riguardo al regolamento urbanistico, quindi la variante sul regolamento urbanistico che è stata articolo 13. L'articolo 13 sì, è stata approvata veramente poco tempo fa. Lo scorso aprile. Cioè il consiglio comunale dello scorso aprile. Esattamente, quindi potete sentire direttamente da una fonte ben ma molto molto autorevole, quale Radio Wombat. Tiriamocela un po', dai. Tiriamocela un po'. In tutto ciò la nostra città è sempre meno vivibile dagli abitanti, il centro si spopola sempre di più. Altro da dire? Altro da dire? Disperarsi? Sì, forse una cosa mi era venuta, ora però mi è un po' passata, quindi magari la prossima volta. Va bene, tanto ne continueremo a parlare purtroppo, perché è una questione non è finita, come dicevamo. Sì, non è finita, soprattutto non sono finiti gli edifici che stanno cercando, esatto, di vendere, quindi... perché ora ne abbiamo tirati fuori diversi, ma Manifattura Tabacchi, ma Sant'Orsola, Mondeggi, signori, cioè, fanno parte un po' tutti dello stesso calderone, non sono poi di proprietà diverse, possono essere della regione, possono essere della città metropolitana o del comune, ma i meccanismi che stanno dietro al mercato di questi immobili purtroppo è lo stesso. Sì, la città è una costellazione di operazioni speculative, sia sul patrimonio storico. La cosa interessante di questo cambiamento al regolamento è che va rispetto a quello che può essere successo per la manifattura o a lavori fatti, diciamo, con varianti apposite. Qui si va proprio a cambiare il regolamento, quindi si va a rendere ufficiale, no? E comunque da questa parte, cioè, abbiamo tutta la parte della piana che vede i progetti speculativi. Verissimo, ecco che cosa volevo dire, proprio questo volevo dire, che l'aeroporto è un punto nodale di tutta la faccenda, perché un aeroporto internazionale come quello che vorrebbero costruire a Firenze potrebbe portare davvero fiumi di persone cosa che l'inceneritore non è. Però il progetto dello stadio accanto, dello stadio, quindi abbiamo una fascia di speculazione su grandi opere e dall'altra parte la speculazione sul bene storico, appunto partendo dal Chianti e da Mondeggi fino al cuore della città. Verissimo, quindi su questo noi non possiamo far altro che ricordarvi e stimolarvi, non vi possiamo prendere per i capelli, per le maglie, perché non ci arriviamo dalla radio, però insomma dobbiamo essere molto attivi dietro la questione del nuovo aeroporto a questo punto, e quindi seguire bene le iniziative che vi saranno molto presto, come già una mamma non inceneritore ci raccontava lunedì scorso, le prossime iniziative che saranno molteplici proprio in questi giorni. C'era un abbraccio collettivo al presidio intorno a terreni che dovrebbero poi finire nella nuova pista. C'erano due incontri in un paio di circoli. E la lotta va avanti, forse anche più forte di prima. Assolutamente. Allora, slanciamoci in un pezzo musicale che sollazzi dopo queste tremende notizie. No, e ci dia anche la carica per contestare. Tremendo. È una nardellata, scusa, ma è una cosa per sì, ho capito. Manda il pezzo giusto. Manda il pezzo giusto. All'inizio era divertente, poi un po' meno. Vero. Ma l'importante è che si lotti. Quando scopri che cosa sempre c'è, poi. E allora regga. C'è la vecchia al bar a fare colazione con i suoi capelli blu, con il marito e la sua coppola a guardare me operaio dallassù. Vado e gli chiedo cosa trova nel vedermi lavorare come un muro. Mi guarda dritto dentro agli occhi e con disgusto dice: vattene a fanculo. e c'è una macchina davanti a me che sembra proprio non ci sia nessuno. Ma smica un San Gennaro appeso sull'unotto posteriore, c'è qualcuno. Guardando bene c'è un pezzetto di cappello che si vede da lontano. Mi volta a destra il vecchio con il medio alzato, va ancora più piano. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. Vecchi di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. Vecchi di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. C'è la stessa vecchia in blu che arriva e anzi ma dentro al supermercato. Io entro e prendo il numeretto per la coda e vedo che già mi ha adocchiato. Mi metto in fila e la bastarda prende e poi mi spinge e mi passa avanti. La chiamo e la mando a fare il culo stretto stretto in mezzo ai denti. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. Vi odio finché non sarò anch'io un vecchio di merda. Sì, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Azioni inutili. Nozioni inutili. Nozioni inutili. Nozioni inutili. Ah. Riacco amici, qua. Ma guarda chi c'è. Sono contentissimo di essere tornato finalmente a Radio Wombat. Ciao amici. Un grande forza, ritorno. Un applauso, ciao. Dai, forza. Non urlare nel microfono, per favore. Scusate, sono stato un attimino irruento. Ciao a Tommaso, aspetta da... Lo salutiamo con affetto. A Vladivostok. A Vladivostok. Ciao Tommaso. Dice. Ciao Tommaso. Abbiamo rubato la rubrica, ho rubato la rubrica a Tommaso, la voce aspetta anche. Da quando... La brunco. Anche la voce. Però ve la leggerò invece con la mia voce normale. Dai. Allora, notizie inutili, diciamo. Notizie inutili quest'oggi. Che volendo le notizie inutili sono nozioni inutili da poi snocciolare nel futuro, cioè, nei vostri momenti accanto al fuoco, così sì, ora e poi sì, perfetto, l'abbiamo buttata sul fuoco, fa le salsicce, sì, no, sì, bisogna vedere, c'è chi non le, c'è chi è al contrario, chi non, vabbè, le digerisce. Io, attenzione, vero, parlano di me. Seguiamo il filo nardelliano, ormai è diventata praticamente una parodia di Nardella, un tutto si collega con Nardella, signori. Nardellaide. Allah Akbar, no? Cioè, Akbar. E funghi, ricordate, l'avevamo detto prima. E funghi. Notizia del Tirreno di 3 giorni fa. Sfodere al macete e urla Allah Akbar per difendere i funghi. Ha fatto scattare il piano antiterrorismo dei carabinieri. Denunciato, ha spiegato che non sapeva il significato di quelle parole. Lasciamo qualche secondo per un commento, certo, sì, in live nostro. Direi bellissimo. Massa Marittima aveva un macete in mano e voleva ad ogni costo difendere le fungaie, quelle conosciute da chi va per macchina fin da giovane. E per questo ha pensato bene di urlare a una coppia di anziani che si erano fermati vicino al lago dell'Accesa, Allah Akbar, facendo scattare il protocollo antiterrorismo dei carabinieri, che lo hanno trovato e denunciato dopo avergli sequestrato il macete e le altre armi che il pensionato aveva in casa. Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando una coppia di anziani che era partita dalla provincia di Siena per raggiungere Follonica ha deciso di passare dalla strada che attraversa Massa Marittima. L'uomo, arrivato vicino al lago dell'Accesa, si è dovuto fermare per fare pipì e si è addentrato nella macchia, mentre la moglie lo stava aspettando poco lontano. È stato in quel momento che è comparso il pensionato armato di macete. È uscito dalla boscaglia urlando più volte «Allah Akbar!». letteralmente in arabo significa soltanto Allah è grande, ma per quasi tutti ormai è diventato un grido di battaglia del terrorismo islamico. E così lo hanno declinato i due anziani che erano nel bosco e che, impauriti, sono scappati dando l'allarme ai carabinieri. I militari di Grosseto sono intervenuti immediatamente. Ma che scherzi, prontissimo. Cioè, corri, E hanno cominciato a cercare l'autore di quella che poteva sembrare in tutto e per tutto una matrice, una minaccia di matrice chissà come hanno fatto a cercarlo, guarda, indagini approfondite, chissà cosa hanno chiesto, c'è un protocollo, cioè, ragazzi, ovviamente come è finita, che i militari efficientissimi sono risaliti all'autore, un anziano che vive poco lontano e che era già tornato a casa tranquillo. L'uomo ha spiegato ai militari di non sapere cosa significasse la frase che ha urlato nel mezzo al bosco. L'ho sentito dire alla televisione e l'ho ripetuta. Sì, ma io non so nemmeno chi sia là e che cosa significa. È vittima del sistema, ragazzi. Ma chissà da chi l'ha sentito, fra l'altro. Vabbè. Cioè, chissà da chi l'ha sentito. Chissà, perché lo dicono in tanti oramai questa cosa in televisione. Attenzione, perché non li freghi, perché i carabinieri, nonostante le parole dell'uomo, hanno ovviamente svolto tutti gli accertamenti previsti dal protocollo antiterrorismo. Il pensionato ha spiegato ai militari di aver cercato di spaventare la coppia per difendere le fungaie che si trovano in quei boschi. E qui mi il trovo d'accordo, mi sembra una buona giustificazione. Invece di solito vengono il mandati brutto, però il metodo normale, quale fai te tu quando vai a raccogliere i funghi con la tua licenza? Guarda, c'è una fungaia migliore di là e li mandi verso il sud-est asiatico. Giusto, sì, di là tutte le strade portano al sud-est asiatico. Esatto. Cioè, o meglio quelle che di essere geloso di quelle zone del bosco dove capita a volte la fortuna di imbattersi in porcini e cucchi. I carabinieri sono rimasti allibiti davanti alle parole dell'uomo che ha rischiato veramente molto e che intanto si è visto sequestrare le armi che aveva in casa e che erano tutte regolarmente denunciate. Si è beccato una denuncia per minacce aggravate, capito? Cioè, ora se... cioè, Molenbeek. Vabbè, incredibile sta cosa. Massa? Molenbeek. La difesa delle risorse del territorio ha raccolto la causa islamica. No, ma attenzione, cioè, la questione delle fungaie è molto importante, sono segreti. Certo. Difesi o è vero, coltelli, è vero, eh? su questo sì, si può. Ora però, cioè, anche vagliela a dire alla mia nonna, capito? Cioè, capito, nel senso, cioè... t'ammazza. Allah Akbar mi sembra il minimo. Appunto, cioè, ma tutto sommato non c'è, grazie a Dio, cioè, come avessi detto una cosa del genere, alla fine, no? Mi fa, sì, ma peccato per il macete. Mi hanno sequestrato tutto. Il macete sì, è un po' peso, Vabbè, il macete, le armi a casa, cioè, ora... Ma il macete serve per tagliare le felci, cioè. Ma sì, ma sarà stato la strada nella macchia. Ma sarà stato lì con una roncola a tagliare duro. Ma certo, ma che macete? A duro, però, è incredibile. Pennato, cioè, magari, guarda, abbiamo... Però sti vecchini bigotti, stronzi così, hanno fatto hanno chiamato i senesi. Cittadini non sono abituati alla cultura. Sì. Comunque, questo per dire che basta poco alla fine per far scattare il panico. Sì, ma cioè, certo, potevamo farla anche a Nardella, questa cosa. È vero, perché cioè, anche potevamo ammalettare, portare via e indagare per indagare, terrorismo. A cosa ci stiamo riferendo? Scusa, a cosa forse... ci stiamo riferendo? A un fatto ben preciso, a un fatto, cioè un a video quando lui, esistente. Sì, volete, ve lo mando, mi sa che ce l'ho, però proviamo, non è che si sente bene. No, proviamo. Eccolo, c'è rimasta la musica. Aspettate un attimo. Non è male, questo mix. Non è male questo mix, reggae music, Nardella dice all'Akbar. Vabbè, non si sente una come serie. Avete potuto sentire. Comunque fatto no. Stacco in Nardella. Lo remixiamo. La prossima volta lo remixiamo. In quel caso lì Nardella saltò sulle spalle a, non mi ricordo a chi era, insieme ad altri sindaci, un altro sindaco faceva la burla, no? All'Akbar, e tutti, che simpatico. Ne sono seguite un sacco di polemiche, naturalmente. Sì, sì. Perché, ma poi è stato dato proprio del cretino a tutti in quella situazione. Da, giustamente. Capito, davanti alle telecamere, c'è proprio veramente il genio fatto persona. Benissimo. Non ce la possiamo neanche aspettare come futura Nardellata, è già fatta. Avanti, ma massa copia solo. Però magari gli ci si scappa tra un pochino, perché magari non si riesce a contenere e la fa succedere lo stesso di nuovo. La visione di una fioriera, magari. Sì. Boh. Si taglia con Nardella, finita. Facciamo la sigla di chiusura, visto non l'abbiamo fatta prima. Sigla di chiusura, direi. Facciamo la sigla di chiusura di Nardella e poi mandiamo Nozioni Inutili. Fa sempre piacere sentire la sigla di Nozioni Inutili. Almeno certo, a me, certo, certo, è vero. Ok. Double sigla. Per me, aspetta. La Nardellata. Sì, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Nozioni inutili. E voilà. E voilà. Allora, avevamo promesso degli aggiornamenti invece da Calci dal Basso. Viva calcio dal basso, oh yeah. Vero. Tra l'altro abbiamo qualcuno che l'ha visto anche live, qui vero, con vero, noi, vero, vero, vero, ragazzi. Abbiamo tutto, signori. Siamo informatissimi. Allora. Allora. Eccoci qua. Allora, si sono giocati i quarti di finale e le semifinali nella giornata di sabato scorso. Sabato. Domenica scorsa. Domenica. Ok, allora ci sono state i seguenti incontri. Riso, patate e cozze contro Atletico Pompa 3-3. Guarda, io avevo giocato Atletico Pompa, purtroppo. Esatto. Brutta bestia. 6-7 dopo calci di rigore, quindi Atletico Pompa. Atletico Pompa. Atletico Pompa è passato. Oddio, passa. Ah no, l'ho sculata per un'altra cosa la schedina. Aspetta, ora la ritrovo. Recreativo Rebelde contro Atletico Del Grado, purtroppo dobbiamo riportare un 3-0. Con infortunio di uno. Uomo simbolo a cui va la nostra solidarietà. Sentiamo un attimino sì, un compagno di squadra, compagno, cosa ci dice di questo spiacevole avvenimento, sia l'eliminazione dell'Atletico Degrado, una delle due squadre per cui noi tifiamo, no? Atletico e Lokomotiv Degrado. Purtroppo è andato fuori anche l'Atletico Degrado. Sentiamo le dichiarazioni di un giocatore che ha stoicamente combattuto prima di arrendersi. Militato. Cercherò di tenere un tono ufficiale o ufficioso. Importante. Bravo. No, sì, posso comunque intanto confermare che l'Atletico Degrado è diventato ufficialmente una squadra quarti di finale di calci dal basso. Quindi l'obiettivo per le prossime stagioni sarà riuscire ad andare sempre più in là. No, vabbè, a parte le battute. E niente, è stata un'ottima giornata quella di ieri. Poi in particolare non troppo per l'Atletico, appunto, perché ha incontrato la squadra campionessa in carica, il Recreativo Rebelde, che nonostante fosse comunque non troppo brillante è riuscito a mantenere salda la partita, che comunque era molto giocata in difesa, trovando un gol a fine primo tempo, mi pare, che è stato subito siglato poi il secondo per una distrazione in un attimo, e quel momento lì ha buttato giù il morale dell'Atletico Degrado, che comunque, certo, non il morale, diciamo la voglia di combattere, non siamo più riusciti ad arrivare fino alla porta. E poi c'è stato un gol sul finale, proprio perché poi è stato sostituito il portiere, che ha subito purtroppo un infortunio, ma nulla di grave per fortuna. Niente di rotto, niente di leso, no. Okay. Possiamo tranquillizzare, un po' di riposo, un po' di ghiaccio. L'arbitraggio non c'è. L'arbitraggio non c'è, perché ricordiamo il calcio a basso è un torneo autogestito. I falli si chiamano. Questo fallo c'è stato, è stato chiamato. Però è stato, insomma, è stato un momento, non è stato voluto. Si è fatto un po' male, ma capita anche questo, come può capitare in qualsiasi. E rischia il mestiere. Sì, nonostante questo, comunque nota positiva, l'Atletico Degrado, a parte risultato in campo, ha sempre mantenuto un certo livello di degrado e morale anche a bordo campo, fino all'ultima battaglia, fino all'ultima. Siete andati a raccattare le palle? certo. Allora dai, barcollanti, ma sì. E niente, se qualcuno vuole, perché vedo comunque dei membri di un altro degrado, un'altra squadra. È vero, degrado è vero. Che avanza anche, è vero, nel Lokomotiv, sì. Degrado. Il Lokomotiv Degrado, io ero in Germania per l'appunto. Ho fondato la squadra e me ne sono scappato in Germania. Allora, ho raccolto io tutto, sono io adesso il dirigente, accompagnatore, allenatore, capitano dei Lokomotiv di Grado. Tutto, tesoriere. È andata malissimo. E anche tifoso probabilmente. Capultra. Anche unico tifoso. È andata malissimo, regà. Però ne avevo già detto. Mi fa ancora male il ginocchio, tra l'altro. Porco il dio infame della Madonna puttana. Scherza. Ecco, sì. Amen. L'Akbar. All'Akbar. Ecco. Ricreativo Le Belde contro Atletico De Grado 3-0, dicevamo. Dinamo Dazi contro mai più sui banchi 5-1 per la Dinamo Dazi, che è volata poi in semifinale. Le Boschi contro Mondeggi un 1-0, probabilmente sanguinoso e tiratissimo. Sì. 1-0 in quel campo di patate credo sia stata una partita incredibile. Ora poi noi parteggiamo per Lokomotiv e Atletico De Grado e quindi parliamo dettagliatamente soltanto delle loro partite, perché siamo in questo molto fascisti. Attenzione, dichiarazioni. In questo, cioè. Questa è, la regia ha preso la parola e fa tutto da sé. Levategli quel se microfono. Nel caso rifatevela con lui. Parliamo solo di Lokomotiv e Atletico. Comunque deve essere stata bellissima Le Boschi contro Mondeggi. Vero, deve essere stato anche un gran caldo, ragazzi. Boia. Questi quarti di finale, ok? Mi aggiornano che poi ci sono tenute anche le semifinali, dove l'Atletico Pompa e il Recreativo Le Belde si sono scontrati, con vittoria del Recreativo Le Belde, ricordiamo, campione in carica per 3-1 sull'Atletico Pompa. Dall'altra parte il Dinamo Dazi, i padroni di casa, si sono fermati a 1, mentre il Le Boschi 6 scopole ne ha dato. E quindi queste le semifinali la finale, con Le Boschi e il Ricreativo Le Belde, cioè le due squadre più titolate della storia di calci dal basso, insomma, si scontreranno in questa grandissima finale. Bene, seguiremo anche la grandissima finale. Quando sarà la grandissima finale? Il 23, sabato, seguirà poi dopo una festa per celebrare il 18° anno di occupazione del Cecco Rivolta. A partire dalle ore 18 ci saranno le partite e dopo anche la bella festa. Quindi niente, sabato 23, viva, appuntamento al Cecco con lo sport e col Cecco Rivolta. Un'altra cosa che mi sento di segnalare imprevista così, però sono i miei amici di Castello e lo fanno per una, credo vado a scopo benefico, tipo sclerosi multipla, roba così. Fanno le 12 ore di basket a Castello questa domenica, allo spazio Biancovede lì a Castello. Fanno 12 ore che chi vuole può andare a giocare a basket. Non è proprio una cosa collegata alle nostre cose di solito, però ragazzi, però è sport, dai, sport, grande tutto il sport giorno, gratis, su Radio Wombat oggi. Gioca a basket una squadra che con cambi continui, te se vai giochi e nulla, questo. Viva, viva lo sport. E viva soprattutto calci dal basso e tutte le gioie che ci regala. A questo punto io direi che potremmo anche prenderci un attimino di tranquillità e mandare un pezzaccio. Che dite? Assolutamente, viva, non aspettavamo altro. Si manda un pezzaccio, ce la riprendiamo un attimo, beviamo Best Mango e... From Egypt. E continuiamo. Wombat Wombat. Wombat. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle in them old cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in them old cotton fields back home. When them cotton balls get rotten, them old cotton field back home. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Eccoli. E rieccoci qua. Facciamo uno spot tempo fa simile a questo intro. Vero. Mai andato in onda. In soldoni. No, no. Era in soldoni, era in soldoni. Era in soldoni. Esatto, era quello. Vero, ma sì, per vero. Decenza e pudore non la manderemo non è mai. Stato mandato. Quello, il pezzo che avete appena ascoltato era Cotton Fields dei Creedence Clearwater Revival, che il nostro buon Pizzo ci ha mandato. Per rimanere sulle questioni dell'antifascismo, invece, di cosa parliamo? Parliamo del corteo che è andato, ha sfilato il sabato 9 giugno, cioè lo scorso sabato, nelle vie di San Giusto e Scandicci. Corteo che era stato indetto proprio per l'apertura di una sede di Casa Pound, l'ennesima, proprio nella via intitolata al partigiano Elio Chianesi. Va bene, Elio Chianesi è una figura simbolo dell'antifascismo e della lotta al regime. È stato barbaramente torturato e ucciso dai fascisti. Quindi loro cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di aprire una sede proprio lì. E noi cosa abbiamo pensato? Bene di fare un bel corteo piuttosto partecipato, nel quale abbiamo raccolto un contributo che vi faremo sentire. Contributo, fra l'altro, è da sottolineare, non di una militante, ma semplicemente di un abitante di San Giusto. Dove è stata aperta questa sede di Casa Pound e niente, qui stiamo testimoniando il nostro disappunto per appunto l'apertura di questa sede, in quanto comunque Casa Pound è un gruppo a cui si rifà i principi fascisti e il fascismo, come ben si sa, è anticostituzionale, quindi come è figlia di antifascisti porto avanti quelli che sono stati i pensieri dei miei genitori, dei miei nonni, e non trovo giusto l'apertura di queste sedi, non trovo giusto dare spazio a queste persone perché comunque sia non hanno delle idee secondo me ben sane, insomma, non c'è rispetto per il diverso, non c'è rispetto per i gay, non c'è rispetto per le donne, c'è rispetto solo per chi la pensa come loro, quindi io credo sia importante far sì che al più presto queste sedi nella nostra regione o comunque in tutta Italia vengano chiuse. E niente, qui c'è questa manifestazione in cui hanno aderito a diversi organi, l'ARGI, l'AMPI regionale, l'AMPI nazionale, la CGIL, la UIL, i HOBAS, Potere al Popolo, ci sono i centri sociali, ci sono tanti gruppi e comunque tante persone che manifestano il dissenso per questa apertura e speriamo che questa chiusura avvenga al più presto. Ecco. Avete fatto altre iniziative e ne avete altre in ponte? Sì, allora tutti i mercoledì sera qui alla Casa del Popolo di San Giusto alle 21 il comitato antifascista qui del quartiere ha aperto le porte a tutti, faranno degli interventi, ci saranno dei dibattiti, degli incontri C'è stato venerdì scorso una piccola manifestazione, un presidio qui davanti a Casa Pound, perché loro stavano presentando dei libri di Gentile, e quindi c'è stato una cosa molto pacifica, è stato cantato Bandiera Rossa, è stato comunque fatto sentire la presenza di questo comitato che non è d'accordo. E niente. E poi verrà fatto, se non sbaglio il 22, verrà fatto un'iniziativa che è partita dai giovani, sempre alla Casa del Popolo, dove verrà comunque fatto una presentazione anche qui di un libro, una serata di danza, musica, insomma momenti di incontro sociale per creare questa unità, insomma per far sì che queste persone poi alla fine vadano via, ma dappertutto, non solo qui da San Giusto. Grazie mille. E non possiamo che unirci, direi, a queste parole. Assolutamente, quindi via i fascisti, non solo da Scandicci, ma ovunque. Ovunque, non possiamo tollerarli, non possiamo tollerare chi è intollerante. Parte la nostra regia nel calcio dal basso. Vero. No, ma poi, insomma, quando si parla di Casa Pound si parla di cose serie, ricordiamoci Piazza Dalmazia, signori e signore. Assolutamente, c'è tra l'altro una sede di Casa Pound proprio a Novoli, vicino a San Jacopino, no? San Jacopino, Coverciano. Insomma, ci sono tanti posti da chiudere ancora. Vero. E allora, cambiamo argomento? Cambiamo argomento, sì, ma non troppo, secondo me, perché alla certo. Fine è un argomento che ritorna, è ricorrente. Parliamo delle frontiere. Allora, parliamo di Passamontagna, per la precisione, dall'8 al 10 giugno, quindi appena conclusosi, il campeggio itinerante dedicato appunto alla lotta contro le frontiere, campeggio di tre giorni, itinerante appunto, come diceva giustamente il buon Tuco, è partito da un paese che si chiama, perdonatemi la pronuncia, stavo cercando quello, Melzé. Che lunedì scorso mi sono sbagliato, l'ho collocato nel territorio italiano, invece no, è in Francia, quindi da Melzé. Vi è stato un dibattito, le frontiere all'interno e all'esterno della fortezza Europa, dall'inferno libico alle frontiere metropolitane. Poi vi sono stati gli spettacoli teatrali. Sabato 10 giugno la camminata ha portato gli attivisti da Melzé a Plampinè. Poi vi è stato un altro dibattito, accoglienza e sfruttamento, un viaggio dagli hub ai ghetti, passando per Cass, Sprar, CPT. A seguire cena, musica dal vivo, quanto si sono sicuramente divertiti tantissimo. Domenica 10 giugno la... Ok, e fra l'altro ci dicono appena ora dalla regia che il nostro corrispondente ha il telefono spento. Davvero? Sì. Quindi noi vi mandiamo un pezzo. Possiamo fare questo, da passare insieme, condividendo idee ed esperienze tra persone libere dal giogo delle identità imposte. Tre giorni di lotta contro le frontiere, progettate dai governanti ed imposte da donne e uomini in divisa che continuano a reprimere ed uccidere. Passamontagna. Passamontagna, sì, le frontiere fanno morti, questo è il pensiero. Andiamo con un pezzaccio che è, in questo caso, Cornerstone. Di Benjamin Clementine. Ah, che spettacolo. Benjamin Clementine. Grazie e Wombat. I'm alone in a box of stone, when all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they're all lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is a place I now belong. It's my home. It wasn't easy getting used to this. I used to scream, but it's not true. And it's only when the door is locked and nobody enters. This mind has been open till your demise. But now that come, well, who am I? What have I done? What have I done? I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to be near me, but they are lying. It's not true. I've been lonely, alone in a box of my own. This is a place I now belong. It's my home, home. Friends I have met, lovers have slept and wept, promises to stay has never been kept. This bare truth of which most won't share, I hope you share. Cause I've been lonely, alone in a box of my own. They claim to love me and be near me, but they are lying. I've been lonely, alone in a box of stone. This is the place I now belong. It's my home, home, my home, home, home, home, home, home. It's my home, home, home, home, home, home, home, home. Eccoci qua, ciao amico, come stai? Abbiamo... Bene. Fanno un po' male le gambe ancora. Sì? Allora... Sì, abbiamo camminato abbastanza in questi giorni. Bene, senti, io ti farei andare a diritto a te, come ti senti, ci racconti un pochino... Faccio un 5 minuti di raccontino di come sono andati questi giorni di campeggio passamontagna. Allora, il campeggio devo dire che è andato molto bene, la partecipazione è stata molto elevata sia da parte dei compagni italiani sia da parte dei compagni francesi, che per ovvie ragioni, trattandosi della frontiera italo-francese, erano quelli più coinvolti nel coordinamento di questa lotta, sia da parte di quella componente migrante che ha scelto di partecipare al campeggio, nonostante ovviamente quando si tratta di dover attraversare illegalmente la frontiera per andare in Francia, dove molti di questi migranti hanno comunque dei contatti, una famiglia, degli amici, per cui non vogliono permanere in Italia dopo il loro arrivo. Questo attraversamento della frontiera ovviamente riesce più agevolmente se fatto in piccoli gruppi e non piuttosto in un grande gruppo che attira molto l'attenzione. Nonostante questo, a molti migranti è stata spiegata questa situazione e hanno scelto di condividere quindi quello che era l'intento politico del campeggio in sé. Il campeggio si è svolto senza particolari incidenti, non c'è stato nessun tentativo da parte delle forze dell'ordine francesi di fermare questa marcia, e è riuscito totalmente a mettere in discussione quello che è il meccanismo della frontiera, per cui le persone senza documenti vengono bloccate e respinte, mentre ovviamente ciò non accade per tutti gli altri traffici che aiutano a mandare avanti il profitto degli stati europei. Comunque durante il campeggio, oltre a quello che erano alla fine le azioni pratiche, che sostanzialmente sono consistite in camminate da una parte all'altra, sono affrontate anche molte discussioni, soprattutto sulla questione dell'esternalizzazione e dell'internalizzazione delle frontiere, quindi di come la frontiera non sia ormai più solamente un confine geografico, cioè una linea attraverso cui alcune persone non possono passare, ma si punta da una parte a cercare di spostare le barriere dell'Europa fuori dall'Europa stessa, con accordi con gli stati del Nord Africa che si occupano di bloccare i migranti prima ancora che partino. Dall'altra, il meccanismo frontiera viene adoperato in maniera diffusa sul nostro stesso territorio. Basti pensare che per ogni migrante senza documenti, ogni poliziotto che incontra per strada rappresenta una potenziale frontiera che potrebbe portarlo all'arresto e al rimpatrio. Tutti alla fine del campeggio tutte le componenti sono dimostrate molto soddisfatte, e speriamo che questo possa essere l'inizio di lotte ben più diffuse sul territorio per chi vuole mettere in discussione questi meccanismi, sia da parte di migranti che da parte di invece persone autoctone che però non vogliono rendersi complici di questo sistema di sfruttamento. Certo. E a questo proposito, se posso fare una piccola pubblicità. Vai. C'è un piccolo collettivo a Firenze che sta provando a ragionare su queste cose, che è il collettivo dei No Borders Firenze. Sì. Domani faremo un presidio alle ore 6 in Fortezza per ricordare Sacco Soumaila, il bracciante ucciso in Calabria la scorsa settimana. Bene. E comunque proveremo anche a capire come fare ad affrontare queste lotte sul nostro territorio, anche in base agli ultimi avvenimenti delle navi bloccate. Certo. e tutto quello che da questo ne consegue. Benissimo, grande, grazie. Vuoi dire qualche altra cosa? Incontrarci in queste lotte. Sì, viva. Benissimo, grazie mille. Ci risentiremo. Niente, noi andiamo con uno spottino nel frattempo. Ciao. ecco lì. Anche le foche bevono Radio Wombat. Brico. Eccoci signori, siamo tornati. Oh, Tuco. E rieccoci qua. Viva. Ah, eccoci. Per allora, questo fine puntata, ma ancora le notizie non sono finite. No, perché il nostro Tuco, guardate cosa ha trovato. Sentite che cosa ha trovato. Sentite, no, guardate, sentite no. Cosa sempre, sempre in tema di campeggi itineranti, vi segnaliamo anche che quest'estate dal 17 al 27 luglio. Ah no, non è vero, guarda. Falsa notizia. Notizia del 2014. Guardate che cosa ha trovato nel 2014. Una bugia alla Tuco, insomma. Ne approfitto io, ve lo dico io che cosa c'è. Giovedì 14 giugno c'è l'apertura. L'apertura, Tuco. Dei giardini. Del giardino estivo. Solidarietà con Rojava. Si parla del giardino estivo del Next Emerson. Ebbene sì, riapre per il secondo anno. Una bella occasioncina, Gumpa. È un angolino di gioia all'interno di questa città, alle soglie di Firenze. E cosa succede però anche il giorno successivo invece? Aspetta, ma leggiamolo, dai, il programma. Ok, c'hai scusa, tutto. Perché... Vai, esatto, leggicelo per bene. Facciamole così a modo. Ci hanno mandato il programma, dai, leggiamolo. Dalle 17 alle 19, Open Funk Console. E poi dalle 19 alle 23 vi sarà... Ragazzi, ma che nome io, ragazzi, non le so leggere. Tu, dammi una mano. HZHA e DJ Fanculo, questo sì lo so leggere. Questo si legge. Ah, DJ Fanculo proprio si sì. chiama. Ah. Al 1200 e al campionatore Beats and Scratch Live Funky Wax Session. Selection. Poi ci sarà naturalmente una grigliata Benefit da Rifreti ad Afrin. E la lotta per il Rojava libero è appena cominciata, dicono loro. Per finire, cocktail bar di Machine Funk. Naturalmente non mancheranno neanche le birrette del CSA Next Emerson. Non mancano mai. Di quelle buone. Di quelle buone e croccanti. Mentre venerdì 15 giugno, Venezia Firenze, McGimsey, Goldoni, Spritz e Funkamari. In quel della polveriera dalle ore 18, cioè inizierà la serata con una presentazione del libro Non godito niente, edito Supernova, con l'autore Jason Francis McKinsey. A seguire, dialogo tratto dalla commedia La villeggiatura di Carlo Goldoni con Cosma Barbafiera e Giorgia Stornanti del laboratorio di teatro della polveriera. Alle ore 19, spritz veneziano a tutto spiano, che fa anche rima, yeah. In effetti. Ore 20 aperitivo, buonissimo. Ore 21 concerto dei Funkamari. Bella storia. Come avrete capito, abbiamo intenzione di saltare la rassegna eventi. Sì, abbiamo fatto ora. Facciamo finta l'abbiamo fatta ora. Ma sì, dai. Comunque, sì, non scordatevi neanche Coccoli al Silicio. Sì. Allora, non scordatevi 21. Niente. E tenete d'occhio comunque il palinsesto, perché poi d'estate un po' varia con alcune pause, ma anche nuovi inizi. Quindi ci saranno nuovi inizi, sì. Si può anticipare qualcosa? Insomma, no, ancora no, perché è tutto in elaborazione. Però sappiate che Radio Wombat è un calderone che ribolle e verranno fuori cose meravigliose. Vero. Promettiamo meraviglia. Allora, anche per questo lunedì abbiamo finito, direi, di solazzarci tutti insieme. Ci vediamo, ci sentiamo lunedì prossimo alle 16.30 qui su Radio Wombat. E niente da dire, viva Radio Wombat, viva Tuco, Fuoco alle Polveri, viva Bricobaldo, viva Grippo e Olmo. E Olmo. Viva. E viva tutti. Wombat Wombat, ragazzi. Wombat. Ciao. Ciao. Con le polveri. Polveri. Radio Wombat.